siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. C'è troppa luce e un mondo sempre più illuminato in cui il buio scompare. Con questo incipit, auguri, forza, venga sotto, forza, avanti. Vieni. Ho sonno. Papà, sto male. E io gli dico, è colpa dell'agenzia delle entrate. E invece c'è il cattivo in questa storia. E allora a quel punto arriverà un giornalista cattivo. Di, quanto hai sul conto? Subito, facciamo outing. Ieri sera avevo 4.500 euro circa. Ma dove li ha trovati? Sotto la montagna del sapone? No, e poi no. L'autunno si preannunciava più caldo. Che è successo? Dove ti sei infilato? Mongolfiere, dirigibili, aerostati. Ci avete capito qualcosa? No. Oh, scusate, ma vediamo un secondo di capirci. Non ti distrarre lì, Rachele. Sì, perché parla sempre lui, è logorroico. Cosa ne pensi? Dai, su. Ma che? Ma cosa? Speriamo di reggere, perché se non reggiamo... Bravo! E tu paghi di più. Tasse. E anticipi. E a pagina circa, cinca. Sceglierei Berlusconi. Abbiamo sparato tutte le poche munizioni che avevamo. Fra poco chiudo e va a fan bicchiere. Popolo dei già svegli, buongiorno! Sono andato in questo weekend in un cinema a vedere Justice League e ho visto che i supereroi in lotta per salvare il mondo sembrano anche loro acciaccati, sembrano loro anche segnati da questi tempi oscuri. Una premonizione, un ritratto, non lo so, ma noi siamo qui svegli a lavorare, a correre, a produrre e siamo insieme al marchese Fulvio Abbate. Pronto? Buongiorno, ci sono questa volta. Benvenuto. Dimenticato il telefonino nell'altra stanza. Capito, mi ha colpito molto questa idea che persino i supereroi sentono il tempo di crisi, eh? Come lo spieghi? Beh, i supereroi sono dei sismografi. Infatti. Cioè, non dimentichi, faccio un solo esempio. Il nastro adesivo, lo scotch, è stato inventato nel 1929. L'anno del crollo di Wall Street. Credo no. Basti questa risposta. Sì. Vabbè, ma siamo a livelli altissimi. Lo è scotch. Un impiegato della 3M, capì che si poteva mettere della colla su dei nastri di plastica. E così nacque lo scotch. Bellissimo. Allora, iniziamo con il fritto misto per capire che cosa bisogna fare per tenere con lo scotch gli elementi che non tornano. Qui la nostra regia, il nostro buon Vale, ha tirato fuori questa bomba, una versione quasi metal di Come Together. E iniziamo subito con il ritorno di Berlusconi. Conoscete Scusami, il signore? Ma voglio ricordare a tutti quelli che stanno arrivando verso la mia età che l'età anagrafica non dice il vero. L'età vera è la condizione dello spirito. È il sentire dell'anima. Io mi sento 40 anni e mi comporto da quarantenne. Fate altrettanto anche voi. Allora, qua servirebbe proprio una riflessione sul berlusconismo vintage, che secondo me è già la chiave di posizionamento della campagna elettorale. Dentiere, pensioni, nonni, rughe, giovanilismo. È una via di soluzione per l'Italia? È una prospettiva seducente? Devo rispondere? No, io se vuoi no. Trovo, allora, innanzitutto Berlusconi... Vedo che funziona. Ha capito che, diciamo, l'età che è un limite, nel senso che va utilizzata in funzione di, diciamo, di un discorso sulle pensioni che ha sempre tirato dal punto di vista elettoralistico. Poi c'è un problema di fondo che nessuno gli vuol davvero bene, come scrivo ieri su Twitter, altrimenti gli direbbero Silvio Strucca, perché l'incarnato di Berlusconi ha la stessa, diciamo, tonalità di certe perette per la Val della Girare di Norma Pirelli. No, vabbè, ma questa devi dire fuori è tragico un paragonato che si ritrova. Ma è un'icona, è pop, ma è prendere o lasciare. Senti Renzi che lancia la nuova crociata e stranamente nella chiusura della Leopolda è contro le fake news. Forse non è neanche sufficiente parlare di fake news, forse dovremmo utilizzare un'altra espressione, forse dovremmo parlare di propaganda più che di fake news. Ho visto che Di Maio ha proposto di chiamare l'OCSE, già che ha il telefono in mano per me può chiamare anche i caschi blu, la Croce Rossa, ma già che ha il telefono in mano dia un colpo di telefono anche alla Casaleggio e ai suoi amici che continuano a ripostare quelle schifezze. Cioè, sai che io non riesco a capire perché si chiamavano panzane, bufale, ho capito perché ora le hanno chiamate fake news e sembra che sia un'emergenza nazionale. Caro Luca, ai tempi miei, diciamo, l'alluvione si chiamava alluvione, adesso si chiama bomba d'acqua e quindi credo la risposta sia puramente nominalistica. Che cosa vuoi? Tra l'altro, appunto, le battute ci sono sempre state. Viene in mente quella secondo la quale lo sperma sia cancerogeno, ti ricordi? Oddio, ma oggi ma sei tutto androginecologico. Senti Renzi che teorizza il sodalizio fra Salvini e Movimento 5 Stelle proprio sul tema delle fake news. Ho visto Salvini che ha detto che vuol fare un patto dal notaio con Berlusconi, già che c'è, prenda l'impegno di dichiarare come i movimenti che sostengono Noi con Salvini e l'unofficial sui social hanno relazioni con i 5 Stelle, perché questo giochino non è un giochino che passa più inosservato. Vi abbiamo sgamato, amici dell'opposizione. Ogni 15 giorni il PD presenterà un rapporto ufficiale sulla rete di tutte le schifezze che troviamo. E c'erano anche gli sposini alla Leopolda, per darti una speranza. Una coppia in abito da matrimonio si aggirava per l'ex stazione, lui Leopoldino Doc, lei bielorusso, appena sposati, l'hanno tenuto tutto il giorno i renziani, tant'è che lei dice: ho visto poco Firenze, temo, ma me lo ricorderò per tutta la vita. Senti. Come viaggio di nozze alla Leopolda? Siamo venuti a Firenze, quindi sicuramente appuntamento immancabile anche alla Leopolda questa sera. Lo sposo finora, la sposa che ne pensa? Concordi con lo sposo? Anche lei è entusiasta di venire qui alla Leopolda? The first time I stay here in Florence, don't see many, but see Leopolda. I think I remember this on my life. Cioè, questa povera donna, la prima volta a Firenze, ha visto la Leopolda. E vabbè, per amore si fa anche questo, meglio Davide Mingacci, il mio amico Davide, ti ricordi? Questa è la madre dello sposo, questo è il padre dello sposo. Insomma, invece di andare, che ne so, agli Uffizi, a vedere a Santa Felicita e Pontormo, sono andati a vedere, insomma, anche questa è una forma di pellegrinaggio. Pellegrinaggio, buono. Berlusconi propone un uomo che aveva già proposto, questo è divertente, come governatore del Lazio, peraltro aveva rifiutato, un generale, il generale Gallitelli lo propone come possibile premier. Oppure abbiamo diversi nomi, le dico una persona molto capace, a cui però non mi sono ancora rivolto, non sono entrato in argomento. Il generale dei carabinieri Gallitelli, che è considerato Leonardo Gallitelli come uno dei migliori vertici del corpo dei carabinieri. Questa è una notizia, quindi lei pensa al generale Gallitelli come... Io penso, come esempio. No, lo trovo straordinario perché Berlusconi ha questa abitudine di proporre persone che non sanno niente che lui lo propone. Già lo fece con Marchionne. Ma con Marchionne, no? Secondo te è una strategia e lui butta dei nomi così nessuno pensa a quello vero, perché tutti inseguono questo malcapitato e poi dice: no, non mi va, c'ho i nipoti, c'ho la vita, c'ho l'arma. No, più che altro lui dice il generale, quindi diciamo che è come se indicasse le qualità di uomo del fare. Il generale dice: sì, effettivamente ci vorrebbe un generale. Vogliamo i generali, da vogliamo i colonnelli. Sì, no, soprattutto perché il generale cosa fa? Come si dice nelle caserme, metta ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. È bellissimo. Una forma di semplificazione che arriva. E vedi, è un messaggio rassicurante. Crozza su Scalfari. che preferisce Berlusconi. Genio Scalfari l'altra sera da Floris ha dichiarato che fra Berlusconi e Di Maio voterebbe Berlusconi. Scalfari, Scalfari. Proprio lui che una volta ha paragonato Berlusconi ad un gangster, cosa fa adesso? Voterebbe il gangster. Ecco, per me sentire che Scalfari adesso voterebbe Berlusconi sarebbe come vedere Hillary Clinton sotto la scrivania di Trump. Uguale. Ma questa come gli è venuta? Di una cattiveria straordinaria. Però Luca, fammi dire una cosa seria, sì, su questo. L'obiezione che va mossa a Scalfari, che dice che preferirebbe Berlusconi a Di Maio, è una cosa profondamente seria, nel senso che perché sinceramente è come se improvvisamente venissero meno tutte le obiezioni di gusto, perché la battaglia, anche quelli che hanno detto che Berlusconi ha detto, cioè, quindi aspetta, diciamola dritta, tu il fatto da tre giorni sta monitorando gli intellettuali della sinistra progressista e democratica, tu in questo gioco di grande inchiesta preferiresti Di Maio a Berlusconi? Guarda, dovendo scegliere preferirei Di Maio, al di là di tutte le mie riserve, perché sai che questo sarà il dramma che attraverserà la sinistra nei prossimi mesi, rischia di esserlo. Scegli Di Maio o scegli Berlusconi? Di Maio rappresenta il nuovo, e c'è qualcosa di inquietante nel timore che diciamo che questo tipo di forti hanno nei confronti di un possibile successo dei 5 Stelle. Ma quello che mi sembra anche mostruoso, la reazione di chi ha trovato inaccettabili le parole di Scalfari, non muove da una riflessione politica, ma una riflessione di gusto, perché sembra che sinistra non possa, cioè la sinistra ha la pregiudiziale del gusto che è più di superiore a quella della politica. E il calcio, ieri c'è stata una vicenda, tu forse non lo segui appassionato, ma di nuovo l'errore dell'eroe, l'errore fatale. De Rossi, il capitano che avrebbe dovuto portare la Roma alla vittoria, ha preso e ha dato un ceffone in area a un attaccante del Genoa che si chiama La Padula, espulso, e poi il Genoa ha pareggiato. Invece vince l'Inter a Cagliari, e me lo dico perché per le mie simpatie del Cagliari, vince la Juve a Crotone, vince il Napoli con Udinese, continua a correre questa vetta. Palla giocata sul primo palo, buon lavoro di Dzeko che allontana, c'è stato un contatto dentro l'area, è rimasto giù, credo La Padula, chiude la review e dal calcio di rigore, rosso per Daniele De Rossi, la trattenuta di De Rossi, poi la manata, si può battere, La Padula di potenza al centro della porta. Sono momenti drammatici per una parte del paese. E il Milan fatica 0-0. Che cosa fai durante queste domeniche in cui il calcio domina, tu che sei un profano? Non faccio niente. Ieri ho visto un terrificante film della serie di 007, dove non era bello, il cattivo con la faccia incastonata di diamanti, insomma. Ah, bello. Comunque mi auguro che il Napoli possa farcela, perché mentre in qualsiasi altra città lo scudetto, diciamo, è un semplice premio, a Napoli diventa come il miracolo dell'Ostia. E nel giorno della classifica del sole sulle città d'Italia, questo scudetto a Napoli potrebbe, che ne so, ribaltare quella classifica. Zoro ha intervistato l'uomo più sereno d'Italia, è Enrico Letta. Professor Letta. Noto un po' di presa in giro. No, e come? No, non è vero. Siamo all'università tecnicamente. Questa è la scuola degli affari internazionali. Di quanto dura questo corso, professor Letta? Domanda un po' trabocchetto. Cioè il mio? Sì, l'impegno con l'università. È un contratto a tempo indeterminato. Ecco, vedi, indeterminato. E questo può voler dire tutto e nulla. Tu sei sempre al Partito Democratico, intanto. No, perché io sono nel centro-sinistra. Voterò alle prossime elezioni. Tu sei iscritto al Partito Democratico? No. Hai capito, Letta, Enrico è ancora lì e dice che non è del PD. Evidentemente voterà per, come si chiama quel, per Bersani. Bersani, per Bersani, sì. Pensa che capolavoro è riuscito a compiere Renzi, a saldare un fra loro delle figure che, diciamo, antropologicamente molto erano molto molto distanti l'una dall'altra. Adesso ti faccio tremare, perché Giorgio Carta, l'avvocato del carabiniere Pietro Costa, uno di quelli accusati della violenza sulle studentesse americane, dice: è troppo bello per stuprare. Ma lei insinua che la ragazza ha istigato il suo assistito? Aspetti, io non c'ero, non c'era lei, non c'ero io l'ha fatto, però il nostro assistito, le assicuro, lei non lo può vedere, è un bellissimo ragazzo, diciamo, non sta a me dirlo ovviamente, non ha proprio bisogno di stuprare nessuno, guarda. Hai capito? La bellezza come garanzia antistupro. Sì, allora quindi mandiamolo a fare il tronista da Maria la Nostra. Sei perfido. Ma sono perfido. Eh sì, dai, andiamolo a fare il tronista. Un carcerato che è diventato bellissimo e tutti se lo vogliono portare a letto in America. No, non lo sapevo. Sì, una storia di un ricercato che dalla foto segnaletica. Che è molto bello. È diventato vapore sui red carpet adesso, non ricordo il nome. E facciamolo difendere dall'avvocato Carta. Strade, torniamo fra poco. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Già svegli. Buongiorno, io faccio il commercialista, mi alzo sempre alle 6:20 e come ogni santissima mattina sto andando in ufficio, che c'ho una condanna penale, che purtroppo dalle 7 fino alle 22 rimango lì, però è un bellissimo lavoro che amo tanto. Quando voi parlate dei guai dell'Italia, quando vi sento ridere e divertiti mi prende male, perché siamo tutti cittadini, quando eravamo alle cose di brutto, datevi una regolata voi giornalisti. Sono in gran sveglia perché il mio cervello mi fa aprire gli occhi alle 6, voi siete la mia droga. Caro Luca, sei molto simpatico, però non riesci a non far trasparire le tue idee di sinistra. In molte cose non sei obiettivo, ma tendenzioso. Luca, ciao, è lunedì mattina, sveglia! A lunedì, Telese un po' si affretta, c'è Radio 24 che lo aspetta, ma lui vorrebbe fare il pelandrone, perché di fatto è un grande dormiglione. Vabbè, ma quest'uomo, questo poeta, mi legge nella mente, ha capito qualcosa di me su queste levatacce. Allora, sono le 6:47 minuti, i messaggi alla segreteria telefonica vanno mandati al 02 30 22 4492, e noi abbiamo cambiato musica, nel senso che abbiamo scelto questo Last Kiss per rendere omaggio a Wayne Cochran, amico di Elvis Presley, morto questa notte. Un altro pezzo di storia che se ne va, caro Fulvio, Siamo non lo conoscevi? Non ho capito chi è che se n'è andato. Wayne Cochran, e lui sta cantando per noi, vedi? E vabbè, non lo conoscevi, Fulvio, non ti preoccupare. E ti volevo far sentire che Tornatore è intervenuto sulla Trevisan. Tu una mattina ti svegli, apri il giornale o accendi il computer e scopri di essere un mostro, un molestatore, un violentatore. Tu scopri di essere uno che non conosci, che non sei. La stai ancora seguendo la vicenda del West End italiano con i suoi addentellati, le sue fake news, le sue certezze, i suoi dubbi? Non tantissimo, anche perché, diciamo, come nel capolavoro sconosciuto, a forza di intervenire sul quadro, è diventato tutto un monocromo nero e quindi, ahimè, non si riesce più a comprendere dove stiano il vero e dove stia invece la menzogna. Senti, Chifano voleva fare un film sul capolavoro sconosciuto. Eh, per raccontare questo, eh? Esattamente, diventa tutto nero, a forza di cercare di bombardare i colori diventa tutto nero. Una bella suggestione artistico-cromatica, a cui aggiungiamo allora questa macchia. Cinzia Fumagalli, la chef, parla di molestie ai fornelli. Mancava solo questo. Si prendeva certe libertà con la lavapiatti e pensava di prenderle anche con la sottoscritta. Stavo girando dei polli all'interno del forno con un forchettone, praticamente si è appoggiato là, io mi sono girata, gli ho un forchettonato un braccio. Il lavoro che faccio è comunque un lavoro ancora tuttora maschile, se non fai così ti schiacciano sotto i piedi. Eroica Fumagalli col forchettone, bisogna stare molto attenti. Beh sì, no, però anch'io una volta, diciamo, sono andato a letto con la sorella di una mia fidanzata e i fornelli, lei si è appoggiata su di me e io non ho resistito, insomma, ho ceduto, quindi... I fornelli da questo punto di vista sono... Galeotti furono i fornelli perché spingevano il fuoco, il calore. Calenda, il ministro Calenda dice che bisogna privatizzare la RAI e recuperare il canone per darlo a chi se lo merita. Non il mio pensiero personale è che la RAI va semplicemente privatizzata. Cioè la RAI va privatizzata. Poi va dato il canone a chi fa progetti, che sono progetti di un valore di servizio pubblico. Anche perché questo se lei vede le dichiarazioni, i politici ci si divertono fino alla fine del mondo a dire questo programma fa schifo, questo funziona, ma le pare che le copia il politico e fa il critico. Era intervistato da Giovanni Minoli, che salutiamo e che conoscete a questi microfoni. Bergoglio su Sant'Antonio, le ragazze che cercano marito. Qui in Argentina si venera tanto Sant'Antonio, è il patrono delle ragazze che chiedono fidanzato. Quando hanno 20 anni chiedono che venga, che abbia, che tenga e che convenga. Dopo a 30 anni se non è arrivato tornano su Sant'Antonio che venga e che tenga. E a 40 Sant'Antonio che venga, come si fa? Capito? Bergoglio dà anche consigli matrimoniali, numero uno. In Francia si dice quando uno trova marito e l'acqua fè Sainte Geneviève, ha indossato Santa Genoveffa. Ah sì? Si dice così? Sì, esattamente. E che cosa vuoi aggiungere a questo viaggio che abbiamo fatto? Perché abbiamo sentito di tutto, dalla cronaca alla politica. La tua giornata di ieri che cosa aveva da... conservare e da trasmettere? Guarda, io ieri sono andato al ristorante cinese con mio figlio e un'amica di mio figlio e ho provato a raccontare loro il film che avevo visto il giorno prima, ossia Gli Sdraiati, dove devo dire che il film poi rimane poco, però dice una cosa, diciamo, profondamente vera, che tutti noi figli di adolescenti aspettiamo sempre che i nostri figli rispondano al telefono e loro non rispondono mai, e anche nel film questa cosa viene rimarcata, e quindi siamo tutti nella stessa barca, crocifissi dall'ansia che questi, diciamo così, finalmente si decidono a rispondere al telefono. Ma perché, quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 15 anni. L'età più critica. Pensa, a me ancora mi risponde Enrico, ma non so per quanto. Quanto c'ha Enrico adesso? Adesso ne ha 11, quasi 12, però è nella fase in cui si diverte col telefonino, mi chiama. Ti rassicuro, papà, l'adolescenza comincia assai presto. È vero, è già iniziato. E non ridere così, non ridere, sarò più fortunato di te. Eh beh sì, il maschio forse è diverso, mentre la femmina è una molto ingestibile. Auguri a tutti quelli che, diciamo, patiscono l'adolescenza filiale. Ma cosa hai capito? Allora dai, dacci una massima. Cosa hai capito? Come si affronta questa adolescenza? Un segreto. Prendendo delle gocce di Cipralex. No! Sì! Ma no, ma una cosa, un segreto, una chiave psicologica che tu hai compreso e che vuoi dividere con il mondo. Come evitare il conflitto. Le volte in cui ti mandano a quel paese, lo fanno spesso... evitare di ribattere, altrimenti si arriva allo scontro anche fisico. Mamma mia, guarda che in che condizioni siamo. Grazie a Fulvio Abate, grazie per questo eroico sacrificio per noi dormiglioni coatti, come dice il nostro romanziere della mattina. Serve una grande poesia che ci racconti la politica in cui tutto torna. Giornale Radio.